Linee d'ombra di Matteo Caccia. È la puntata speciale di Linee d'ombra, quella del sabato, quella delle 21.30 più o meno, in cui vi raccontiamo la nostra storia seriale. Noi tutti i giorni siamo in onda dalle 15 alle 16 e in chiusura di puntata raccontiamo una storia a puntate, una storia che raccoglie il nostro Mauro Pescio e che ha a che fare con i vizi capitali. Questo è l'ultimo vizio capitale che affrontiamo, è il vizio della gola. Cominciamo con questa settimana e lo chiuderemo tra due o tre settimane. È la storia di una donna che conosce l'anoressia quando ha 37 anni e questa cosa la devastò. Basterà. Lussuria, accidia, avarizia, invidia, ira, superbia. Finora abbiamo raccontato sei vizi capitali in forma seriale attraverso le storie di un ex pornodivo, di un ragazzo dipendente dal videopoker, di una persona affetta da disturbo di accumulo e poi ancora un uomo perseguitato dall'ex moglie, il figlio di una vittima della lotta armata e una ragazza sopravvissuta ad una strage in un campus americano. Ho tenuto la gola come ultimo vizio da raccontare per un motivo molto semplice, ed è che non trovavo l'idea giusta. Negli ultimi anni si è parlato tantissimo di cibo nei media. Le reti traboccano di trasmissioni legate al cibo e andarsi ad aggiungere facendo probabilmente peggio non mi sembrava la strada giusta. Le dipendenze da sostanze sono classificabili nel vizio della gola, ma le abbiamo già sfiorate nelle storie precedenti e a raccontare i disturbi alimentari ci vuole una competenza che non possiedo, che nessuno di noi qui possiede. Una traccia che mi sarebbe piaciuta seguire era quella che fino a qualche millennio fa gli esseri viventi si dividevano tra cacciatori e prede, cioè tra chi viveva per trovare il cibo e chi invece viveva per non diventarlo. Ma questo riguarda più la sopravvivenza della specie che non il vizio. Quindi ho preso tempo, sperando che arrivasse da qualche parte lo spunto giusto. Poi, un giorno, tra le storie inviate dagli ascoltatori, è arrivato un messaggio che diceva così, nel titolo: «Vizio capitale, la gola, di una cuoca ex anoressica». In poche righe parlava di come si è ammalata di anoressia all'età di 37 anni e di come, dopo aver superato la malattia, ha usato la cucina, il cibo e la letteratura legata al cibo, a suo dire, come maieutica. La maieutica, nell'ambiente socratico-platonico, è il criterio di ricerca della verità e consiste nella sollecitazione del soggetto pensante a ritrovarla in se stesso e a tirarla fuori dalla propria anima. Il termine greco significa letteralmente arte ostetrica ed è usata per la prima volta da Platone. Ecco, prima di ricevere questo messaggio, io, da analfabeta in materia, ero convinto che l'anoressia fosse una malattia esclusivamente legata all'adolescenza o poco più. E soprattutto mi attraeva l'idea, altrettanto sconosciuta, che il cibo potesse essere un'occasione per conoscere meglio se stessi. Così, poche settimane fa, ho preso i contatti con l'autrice di quel messaggio, con Anna Maria, e ci siamo incontrati. Partiamo dall'inizio, partiamo proprio da... Cioè io adesso qui davanti sì. Ho semplicemente la storia che tu hai mandato, no? Sì. Devo dire che dal mio punto di vista la cosa che mi ha attratto in quello che tu ci hai scritto è stato il... questo passaggio primo, che tu hai sofferto di anoressia da adulta, che invece io ne so poco, però immaginavo fosse principalmente un problema legato alla fase di crescita dell'adolescenza, oppure cioè... Nel mio caso invece era proprio un'idea di eliminarmi. From our American dreams.

E anche in questo caso questa complicità era un'ulteriore valvola di salvezza. Stefano è stato, sotto questo punto di vista, una mia valvola, e io per lui. Intorno ai 15-16 anni lui mi ha confidato di essere omosessuale. Lo disse a me per la prima volta e pochi anni dopo è dovuto uscire dall'Italia perché la sua famiglia non l'accettava. Si è trasferito in Germania, ma non siamo più in contatto purtroppo. Lui ha fatto un percorso molto importante durante il quale ha deciso di cambiare sesso e ha tagliato i ponti con tutto il suo passato. Rispetto e comprendo la sua scelta di non avere più contatti, ma mi dispiace. Gli voglio ancora bene e spero che anche lui me ne voglia. Oltre a Stefano, la biblioteca continuava ad essere la mia stella polare. Distava circa 2 chilometri da casa e ci andavo quasi tutti i giorni in bicicletta. Là mi si apriva quell'altro mondo in cui io non potevo accedere, quel mondo di riviste che non potevo leggere, libri che non potevo consultare. Trovavo l'Europeo, l'Epoca, tutte riviste che per me rappresentavano un'evasione vera e propria. All'epoca, a casa mia, c'era solo il Gazzettino. Me lo ricordo ancora, un tomo alto così, copertina rossa, con scritto io, virgola, omosessuale. Ed era la storia. E stavo affrontando, che poi ritorna nella mia vita tante volte, tutto quello che è l'esodo in generale. Stavo affrontando con il primo anno di scuola superiore, stavamo affrontando la Shoah. E l'insegnante mi diede questo libro da studiare. Ed era la storia di un ragazzo olandese, perché diciamo era l'idea di concentrarsi su tutti quelli che sono finiti nei campi di concentramento che non erano ebrei. Aveva fatto una scelta diversa di vita e quindi c'era questa storia incredibile. Poteva essere qualsiasi cosa questa storia, cioè per dire, c'era solo la copertina. Io mi ricordo la scena che mia madre entrò in studio, cioè dove era la mia camera, insomma, stavo studiando, e vide il libro, lesse il titolo, ti dico un tomo pesante, quindi non era un giornalino, non era un topolino, e con una forza, con una rabbia, perché mi ricordo anche il volto stravolto, l'ho preso e l'ha strappato in due. Well, I walk upon the river like it's easier than land. Evil's in my pocket and your will is in my hand. Oh, your will is in my hand. Stand up on so still. Love is old from what I've heard, but my heart's learned to kill. Oh, mine has learned to kill. Oh, I said I could rise from the harness of our gold. Here come the tears. Well, like always, I let them go, oh-oh-oh. Just let them go, oh. Now spikes will keep them falling from the heavens to the floor. Future was our skin and now we don't dream anymore. No, we don't dream anymore, oh-oh-oh. House are made from spider webs and the clouds were rolling in. You bet this mighty river's both my savior and my sin. Oh, my savior and my sin. Che non è in certi parametri, non se ne parla assolutamente, fine della trasmissione. Quindi non ce n'era neanche la possibilità del dialogo. Non se ne parla e basta. E non se ne parlava e basta anche nelle cose più semplici, come da dire, sfoglio una rivista che ha un orientamento politico diverso dal tuo, perché no? Cioè, devo farmi una mia opinione, per dire. E dove potevo andare io? Potevo andare in biblioteca,